palazzino stai parlando? Oddio. No, la voce è strana, l'accento. Strana, cioè strana. Rifai un passaggio. Oh, non è 3:10. Ma un po' di eco c'è sotto là. Facciamo vedere. Ah, se ce n'è ancora. Poco, dai, già va bene così, da aspettare. No, ti ho sentito là. No. Se la vuoi farmi sentire quel microfono, quello mio, quello vecchio che c'aveva il pulsante per parlare troppo duro, mi sarà la stessa là. Ma sentiti sporco, duro, come duro? Duro non era morbido come l'altro, era dove si c'è un mezzo, troppo duro era la molla. Hai visto che qua parte di qua, se ne attendiamo, ce lo devi buttare il cassonetto, che ne fa poca, è tipo quello di Mario. Non ti preoccupare, sistemiamo anche quello. Ma come li senti, Robè? Più giovane, mi pare, grazie. Questo è quel microfono. Ciao Luca, buongiorno. Non ti preoccupare, sistemiamo anche quello, non c'è problema. Non si deve raffare nulla, lo cacciamento. Ok, vabbè, questo è quello lì, dai, è al massimo, com'è? Sì, ma se lo puoi tenere il Mickey Game tutto aperto, Claudio, te lo permette? Sì, Mickey Game tutto aperto e Mickey Game del microfono tutto al massimo. Vabbè, no, nel mio, nell'Intex, cioè nel mio non si poteva tenere tutto aperto il Mickey Game perché sennò diventava muto. No, qua è tutto aperto e amplificazione al massimo, non è un grande microfono, comunque ti permette di uscire tranquillamente senza tenere il microfono in mano, tutto lì. Capa, Mario, ci siamo. Oppure Mario, se riesco a buttare una capsula, ci metto una capsula da 500 ohm, perché quella è da 1000 ohm, l'hai vista? L'ho vista, vabbè. Ma comunque ce la vediamo, se riesco a procurarla io una capsula meglio di quella, gliela mettiamo, dai. Va bene, d'accordo, non si butta niente, si recupera tutto. Adesso ti do questo e mi dai quel microfono e le pulisco la mela e lo metto a posto. Vabbè, non c'è problema, non ti preoccupare. Riprendi Luca. Riprendi, me vado a mangiare. Ciao, faccio chiudo, buon pranzo. D'accordo, Robè. Ci sentiamo dopo, che anch'io devo ancora caricare che qua a casa sono arrivati adesso. Ciao, buona carica, tu parli, dai. Gianni, ci sei? Gianni, ci sei, Mario? No, non ce n'è più ancora, dai. Sono qua in ascolto, ci sentiamo dopo, Robè. Capa, dai, rimango un po' in ascolto, poi vediamo se entra qualcuno. capisci così strano? Sono in battuto, se ne sono in battuto, non ti basta per avuto. No, no, ti dico, siamo a cevolare di aver fatto pietà. Sono sopportato, ma... ma ascolti sempre con questo, non l'hai messo. Ma la radio è... cuffombe, robe. Mi sa fatto la volontà con tutto, là, là. Meglio adesso fa. È una, tutta un'altra cosa. Quindi non perde di potenza la radio, ma perde di... cioè, non perde di segnale, ma perde di radio, quando si scarica la batteria. E anche di segnale, perché di 9, se si 9 e 10, però la radio... si chiude un bel. È finito Delta 1, è finito? È finito, ma vabbè, c'è una lì. No, un attimo, la base. La nata lì. Ebbene, nata. Nata lì. Dove? Dimmi, fra. A Claudio non l'hai sentito? Sì, la Claudio è andata a mangiare adesso, l'ho sentito 20 minuti fa, ha detto che riprenderla dopo. Infatti gli ho voluto chiedere anche cosa, adesso che mi è venuto in mente. Roger, no, se volevo fare una prova, volevo sapere se si poteva spostare. Vabbè, io sto aspettando il muratrine e fare il buco nel muro. Buco nel muro? Sì, devo fare il buco nel muro per farmi passare i cazzi. Beh, ci vuole il muratore. Sì, viene un amico che mi fece il scappano quello col bicchiere grande. Beh, scappa, scappa. Abbiamo scappato con 7 scalpelli. Ma che è un medicale devi passare? Sì, e poi il muro è spesso, sono quasi 40 centimetri. Caspita la faccia. Ma muro esterno stai parlando? No, dall'esterno vai sull'interno. Vabbè, no, pensavo fosse un tramezzo, un buco di passaggio interno. No, non ho doppio, un buco devo fare doppio, perché sennò devo fare troppe modifiche. Ma c'è tipo un canale dentro, un tubo, una canaletta? Sì, faccio una canaletta con una scatola per esterno, così evito di ogni volta di stresciarmi il cervello per far passare il caffè. Gaffa, gaffa. No, stavo dirò adesso, stamattina, anzi ieri, dato quel microfono quello vecchio che avevo io, che aveva il tasto di, per parlare, che era troppo duro, me lo doveva guardare un po' lui, ha detto, te lo ci fermo io. E l'ho sentito parlare stamattina, ma la voce sua è molto diversa dal normale, infatti devo vedere se trovare una capsula diversa. Ah, ho capito. Vabbè, vieni già, però. Ma ringiovanito di 10 anni col microfono, oh, un microfono della CTE che avrà almeno 35-40 anni col microfono. Poi l'ombra, già lo sai, la timbrica di Claudio è quella, non penso ci siano problemi. Riprendi Natale. Io avete parlato in due e non ho capito niente di quello che avete detto tutti e due. Vabbè dai, no problem. Stavo dicendo Natale, se l'avete risolto la misura del dipolo, la formula è sempre la stessa, non c'è da sbagliare. No, ma chi sa come ha preso lui la domanda, capisco, bisogna vedere com'è la domanda, capisco, perché la domanda l'ha esposta male lui, bisogna vedere com'è la situazione, io quando lo leggo lo so cosa devo cercare. Sì, era la domanda con l'incognita, lui ti sta già dando la frequenza, 144 forse era la frequenza, ti avevi già un dato conosciuto, dovevi tatuare quella frequenza a quanti metri corrispondeva, e poi vuol dividere per 090, no aspetta come la lunghezza del polo è, frequenza, lunghezza d'onda diviso 095, no per 095 diviso 2, così è. E io vabbè già quando la vedrò la domanda, io non ho visto nessuno, quando vedrò la domanda allora vuol dire so cosa devo cercare, capito? Perché non si spiegano bene, fa tutto nei 50 e non puoi ribattere. Ho trovato, come forse ti interessa a te, come c'ho delle riviste molto vecchie, degli anni 60, così, tutte le disposizioni per il montaggio di tutti i tipi di dipoli, AL, WL, WT, ecc. eccetera eccetera, come si montano, proprio fatta regolarsi. Esatto. Mi interesserebbe tutto le prove. Ci sono tutte le prove, a che distanza vogliono, cioè a che altezza, come si mettono, eccetera eccetera. Cioè sono tutti i tipi di ripoli lineari stiamo parlando, e poi ci sono le verticali, vabbè. Comunque insistono, queste sono, riviste molto vecchie, insistono che il sistema migliore è sempre la verticale rispetto all'orizzontale come rendimento. E dipende da cosa la usi, capito? Secondo dove la usi, la verticale non è andata tanto bene. Parliamo di trasmissione, io sto parlando di ricezione, può essere anche conveniente farlo in orizzontale. No, anche in trasmissione, secondo l'obiettivo la verticale non fa nulla, capito? Discorso, l'orizzontale dice per avere la monta resa deve essere il più alto possibile da terra, dal piano di terra, diciamo, così può rendere, se no si avvicina non ha resa. Beh, certo. Bisogna essere libero da ostacoli praticamente. Io le ho viste le antenne, ma non c'è a Roma, le stazioni della Radio Vaticana, le hai mai viste? E io la fotografia l'ho visto. Io le ho viste davvero, lì ci sono un sacco di antenne lineari perché lavorano su potenze enormi e su una miriade di frequenze. E tu le vedi, però hanno dei traliccio, 80 metri di traliccio, cioè sono delle cose assurde. Hanno un terreno, sarà 50 ettari pieno di antenne. Montevario c'è una situazione in alta a tutti, una libertà di segnale impressionante, però se uno lo mette in casa, secondo me, come lo sta utilizzando Luca, secondo me non riesce a irradiare. Sì, bisogna vedere come se l'ha piazzato Luca. Capito? Io ce l'avevo e funzionava bene, te lo ricordo. Sì, sì, me lo ricordo che l'ho utilizzato, però probabilmente qui c'è una situazione diversa, ci avrai diverso sistemazione, cioè non so come l'ha piazzata, sicuramente non l'avevo posizionato, lui diceva attaccata al rubano della televisione, l'altra attaccata all'offenditurio, eccetera, eccetera. Io poi c'ho un bel progetto, questo è semplice, per un dipolo ripiegato, questo è una situazione facile da fare. Ma bisognerebbe vedere com'è, per quale frequenza è. No, ci sono già i calcoli, si può fare su tante frequenze, ci sono dei giornali, delle riviste di pratica, diciamo, tipo elettronica pratica, cose del genere, molto vecchie, ti sto dicendo degli anni 55, 58, di quell'epoca lì, ne ho diverse, ma guardandole ieri, sfogliandole, ci sono proprio questi progetti qua, tanto la legge della cosa è sempre la stessa, non è cambiata, la legge di Ohm, non è così. Beh, io sono a samba. Cambieranno i materiali, vari, adesso ci saranno nuove disposizioni, diciamo, nuove orientamenti, diciamo, di costruttivi, però la legge per costruire almeno le antenne semplici e elementari è sempre quella. Devo buttarmi, cioè io ho un progetto di un'antenna, però devo buttarmi come si costruisce il bulb 6 a 1. Perché è un'antenna un po' particolare, capito? Ed è una bomba quell'antenna. Ma volete fare poco di esperimenti? Come? Ma volete fare poco di esperimenti? E perché non va bene fare esperimenti? Oh yeah, lascia perdere, Natalia. Ciao, visto. E perché lascia perdere? A me mi piacciono questi interessi, questi esperimenti qua, io li ho sempre fatti. Ehi, buonasera comunque, qui da questa parte. Don Volpe, Victor della Svegas. Ti complimenti comunque, no, è bello sperimentare, però naturalmente ci sono sempre quelle cose che ci vogliono gli studi, eccetera, eccetera. E approfondisci poi un po' di difficilissimo, è un po' complicante. Io li ho sempre fatti, ho studiato sopra, cioè li ho fatti sempre diversi quei ballum, però mi interessa questo ballum 6 a 1 per costruire una certa antenna, capito? Sì. Sentiamo il parere invece del nostro amico collega, vai. Ciao, io sono Roberto, non ti ho mai sentito, ho servito già almeno a quello, ben sentito. Non avevi mai ascoltato in radio? Ma io sono nuovo, per cui non posso, diciamo, ho una conoscenza molto limitata, diciamo, sono da poco che sto modulando, conosco i soliti, quelli che sono entrati da da qualche mese a questa parte, probabilmente tu sarai molto prima di me. Ho detto che c'è qualcuno che sta per le antenne, vendo proprio le antenne. Vieni, ho detto, l'ho detto. Com'è la situazione? La situazione è sempre sotto controllo. Non c'è un giovane di mano, è sempre Thank you. benissimo comunque come segnale da queste parti qui, ho visto, ho basso, anch'io ho sentito solo basso perché la risposta è quella che è, perciò è tutto qui. Ok, riprendi tu quindi. Non, parlato in due, il microfono per Vittorio. Ciao Gianni, io vi lascio che vada a prendere la pastiglia, dai, cerchiamo il limite dopo. Vittorio, riprendi? No, scusa un attimo, Vittorio. Claudio? Sì. No, io devo staccare un attimo i messaggi qua dopo. Scendi un attimo là che devo fare una prova. Dammi gli ultimi tre. Fai 600. Ok. Mi stacco un attimino, faccio una prova con Franco e ci sentiamo dopo. Il microfono per Vittorio, avanti Vittorio. Tutta quanta quella roba che ho portato ieri, io ho fatto anche altre commissioni, via dicendo, e vabbè, là. Vuol dire che stasera me la piglio con più calma e mi riposo un po'. va bene, ma mi è sembrato di aver sentito anche a Claudio. Mi sa che è andato a fare delle prove con Franco. Non lo so, non è qua. Sicuramente sono andato a provare qualche altra cosa. E io tra un boccone e l'altro, perché io ci sono anche in ritardo, mio figlio mi sta chiamando. Babbo, tu Enrique, per me che già vi ascolto. E intanto vado a caricare il secondo. Cazzo, va bene. Ciao Mario, buon proseguimento, buona seconda carica. Oh, va bene. Mi sa che stanno tutti continuando a fare i secondi,